Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Oggi ci sarò io, domani torna Sebastiano Barisoni. Di che cosa parleremo oggi? Riprenderemo tutta la vicenda che riguarda il ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, in realtà non toccando specificatamente la posizione di Lupi, che sarà domani al vaglio del Parlamento. In questi minuti, in queste ore, a quanto pare lo stesso ministro sta decidendo se dimettersi oppure no, e a quanto pare lo stesso nuovo centrodestra starebbe iniziando a far pressioni perché lasci l'incarico. Ma ci interessa, come è il caso che faccia una trasmissione come questa e un gruppo editoriale come questo, il Sole 24 Ore lo fa ampiamente nel suo numero oggi in edicola, di andare sul tema del funzionamento degli appalti, del funzionamento dell'assegnazione delle grandi opere, perché alla fine tutto il problema e molti dei problemi che abbiamo visto nell'ambito delle inchieste che hanno portato a scoprire casi di corruzione, posto che ovviamente sono indagini che dovremo andare a processo, bisognerà vedere chi sarà condannato, evidentemente ci sono dei problemi e questo è chiaro agli occhi di tutti. Allora, vogliamo ragionare un po' su come si possono modificare le regole. Lo fa bene oggi Giorgio Santilli, appunto, sul Sole 24 Ore. Con lui parleremo, con lui faremo un approfondimento su questo, su come si possono modificare le regole per evitare che vicende di questo genere, o per limitare al massimo vicende di questo genere. Parleremo anche di un'altra grande opera che è nel mirino e che è finita nell'inchiesta, e lo faremo sempre con Giorgio Santilli, che questa Orte-Mestre, l'autostrada Orte-Mestre, un'autostrada da 9,8 miliardi di lavori, per la quale era stata prevista una defiscalizzazione da 1,9 miliardi, quindi da 2 miliardi di euro, defiscalizzazione che la Corte dei Conti aveva fatto saltare e che sostanzialmente si sarebbe riproposta nello sblocca Italia, e quindi anche questo è un punto interessante. Si può ragionare anche sull'utilizzo di un'opera di questo genere. Ci occuperemo di questo e poi ci occuperemo di industria italiana. Poi gli argomenti sono parzialmente collegati e vedremo come, perché da qualche tempo è partito un roadshow organizzato da Confindustria Servizi Innovativi per fare cosa? Per sensibilizzare gli imprenditori sul tema dell'integrazione tra i servizi e l'industria e la manifattura vera e propria. Allora, detta così sembra un po' generica, però ci sono una serie di accordi che questa nuova economia, questa industria 4.0 come viene chiamata, ci sono una serie di elementi che permette questo nuovo clima di inserire all'interno dell'industria stessa, che possono migliorare i processi, i prodotti, gestire meglio l'impresa, anche molto semplicemente su elementi come l'e-commerce, la profilazione del cliente, quindi capire esattamente che cosa vuole il cliente, il servizio post vendita. Tutti questi elementi sono cose che al momento non stanno passando in maniera massiccia all'interno delle nostre imprese, lo stanno facendo più in altri paesi come per esempio la Germania, e sono elementi di crescita, ossia offrire un servizio in più ai clienti, migliorare la produzione in fabbrica, non solamente grazie a per esempio nuove norme sul lavoro o una migliore distribuzione dei capitali, ma semplicemente, come dire, migliorando l'infrastruttura tecnologica. Non è solamente questo, c'è molto altro. Il roadshow è più o meno a metà del percorso e domani uscirà un ebook gratuito insieme sul Sole 24 Ore, sul sito del Sole 24 Ore, potrete scaricare, che è dedicato esattamente a questo. Ci occuperemo, vedremo se ne avremo il tempo e la possibilità, un po' più approfonditamente di quello che non ha deciso, ma dalle dichiarazioni di ieri del presidente della Federal Reserve, Janet Yellen. Qua tutto si gioca, tra i due termini pazienza e impazienza, cioè quando arriverà il momento nel quale la Federal Reserve alzerà i tassi, la finestra al momento è piuttosto ampia, si dice da giugno, potrebbe essere giugno, si potrebbe arrivare fino a settembre, di certo la Fed ha detto, ha tolto l'espressione avremo pazienza nel tenere i tassi così bassi, però ha detto anche la Yellen, utilizzando sempre lo stesso termine, non saremo impazienti nel tornare ad alzare i tassi. Questo è il solito equilibrio che tengono i banchieri centrali nel parlare di politica monetaria e di decisioni future di politica monetaria. Infine Enel, che oggi ha presentato il suo piano industriale, a seguirlo c'era la nostra Livia Zancaner, che ha intervistato un amministratore delegato, e ascolteremo l'intervista. Le notizie in breve di oggi. Non prima di avervi dato un paio di numeri, innanzitutto quello di SMS, il 349-238-6666, e poi i mercati, perdonate se me ne sono dimenticato in apertura, poi ci torneremo, come sempre avviene, più 0,95% il FTSE MIB, più 0,9% il FTSE All Share, quindi vanno bene le cose, e va meglio l'Italia di tutto il resto d'Europa, se considerate che Francoforte è negativa dello 0,11%, Parigi è in perfetto pareggio, Londra guadagna lo 0,06%, tra i titoli positivi Saipem più 3,6, Enel più 3,2, Pirelli più 2,8, Ubibanca più 2,3, Autogrill più 2,15, Unicredit 2,06, e in fondo al listino Enel Green Power che c'è del 2,02, Settima Microelectronics l'1,5, Ferragamo l'1,4, Snam lo 0,71%. Abbiamo l'oro in lieve rialzo a $1,169 l'oncia, in calo il petrolio, il WTI, quello quotato a New York, del 2,8% a $45,5 al barile. C'è il bollettino di marzo della Banca Centrale Europea, visto che si parlava poco fa di banche centrali, c'è anche la nostra, la Banca Centrale Europea. L'attività economica dell'Eurozona dovrebbe accelerare ulteriormente, dice la BCE, spinta dai progressi sulle riforme e il risanamento dei conti pubblici, i guadagni di competitività di prezzo, e qua ci si riferisce naturalmente al cambio dell'euro, e la ripresa mondiale. Ma si rivolge anche all'Italia, dice l'Italia ha bisogno di ulteriori riforme per accrescere il prodotto potenziale, scrive la BCE. Riforme significative portate completamente a termine nel mercato del lavoro e liberalizzazioni attuate insieme potrebbero determinare una crescita del PIL di oltre il 10% nel lungo periodo. Parla da BCE di un aumento della volatilità per quanto riguarda gli spread dell'area euro a causa della Grecia, mentre Standard & Poor's dice che il quantitative easing, ossia il programma di acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea, sta creando un'ondata di ottimismo nell'Eurozona e probabilmente aiuterà nel breve termine, ma se porta la politica a cullarsi negli allori potrebbe essere controproducente nel lungo periodo, mettendo sotto ulteriore pressione i rating sovrani. Cosa vuol dire Standard & Poor's? È un po', se consentite, la tesi tedesca, ossia se Draghi è di manica troppo larga, i paesi che devono fare le riforme vedono lo spread che si riduce e rallentano le riforme. Questo è quello che dice Standard & Poor's in sostanza. La BCE tra l'altro ha dato il via libera a un aumento di circa 400 milioni della liquidità di emergenza erogata dalla Banca Centrale Europea, portando il totale a 70 miliardi. Parliamo della liquidità d'emergenza per le banche greche, la Grecia aveva chiesto un esborso maggiore che non è arrivato. Segnala nel frattempo il Financial Times che nella sola giornata di ieri si è verificato un flusso in uscita dai depositi bancari greci compreso tra i 300 e i 400 milioni di euro. Sarebbe la somma più alta dal mese scorso. È riunito il Consiglio europeo e questo lo sapete, ha osservato pochi istanti fa un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell'attentato, degli attacchi terroristici di Tunisi. Il cuore di questo Consiglio europeo doveva essere il tema dell'energia, ma ovviamente c'entra anche la Grecia. Merkel fa sapere: nessun accordo finale stasera o lunedì. Lunedì, perché cita lunedì la Merkel? Perché lunedì si incontrerà con il premier greco Alexis Tsipras, che sarà in visita a Berlino. Lo conferma anche il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk. L'incontro di questa sera non sarà decisivo. E sul braccio di ferro tra Atene e Berlino, i 100 secondi dell'economia in collaborazione con RDS, a firma oggi di Alessandro Plateroti, vice direttore del Sole 24 Ore. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. La Germania dei due volti. Eccola ancora a Berlino, la linea dura sulle riforme e sul risanamento dei debiti degli stati, ma anche il senso di responsabilità del non far naufragare l'Europa solo per difendere l'orgoglio tedesco e il dogma dell'equilibrio del bilancio. Siamo nuovamente alle prese con questi due volti. Questa sera si incontreranno i vertici della Grecia e appunto la Merkel, proprio per cercare una via d'uscita dalla crisi che ancora continua a pervadere Atene e pesare sui mercati finanziari europei e sugli stessi equilibri all'interno dell'Europa. Finora ci siamo lamentati di un attivismo tedesco, di un suo protagonismo quando si tratta di affrontare le grandi tematiche dell'Eurozona. Ora però ci rendiamo anche conto che proprio quell'attivismo non è il riflesso di una voglia di supremazia, ma soprattutto del vuoto politico che ancora circonda il futuro dell'Eurozona. Tutti si affidano alla Merkel. Riuscirà questa volta a trovare la quadra e così ad attivare quei finanziamenti che potrebbero salvare la Grecia? Tutti scommettono oggi di sì. Lo dicono i mercati, lo sperano anche i governanti, soprattutto di Italia, Portogallo e Spagna, che sono osservati speciali in questo momento. I nostri giudizi sulla Germania sono sbagliati? A volte sì, a volte no. Certo è, comunque, che sarebbe ora di una presa di coscienza in Europa su chi sono i ruoli e di chi deve avere la leadership nella gestione sia dell'economia che delle grandi sfide politiche. La Germania da sola certamente non può essere un'opzione, ma trattare con la Germania oggi è più opportuno che mai. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Sui temi europei è oggi intervenuto anche il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, era all'inaugurazione dell'anno accademico della LUIS Guido Carli di Roma, giornata piuttosto intensa perché poi è iniziato anche un vertice a Palazzo Chigi sull'ILVA con lo stesso Padoan, Renzi, il ministro dello sviluppo Federica Guidi e il commissario dell'acciaieria Piero Gnudi. Cosa ha detto sull'Europa Padoan? Se le regole europee si rivelano inadeguate ad affrontare circostanze eccezionali, il rispetto dell'efficienza ex ante può condurre a comportamenti controproducenti fino ad un fallimento delle istituzioni. Insomma, istituzioni a rischio se ci sono regole inadeguate. La regola del debito, ha detto ancora, si rispetta, come detto anche dalla Commissione europea, anche se si fanno le riforme in modo deciso. Sentiamo un brano, una parte, le parole di Padoan al microfono di Francesco De Remigis. Se per esempio la regola del debito venisse applicata in modo meccanico oggi, sarebbe come si dice self-defeating, cioè contrarierebbe il suo risultato di battere il debito. Ma il debito si rispetta anche, come ha dimostrato la Commissione Europea, ci ha detto chiaramente la Commissione Europea, se si fanno delle riforme in modo deciso, soprattutto in un contesto difficile come quello macroeconomico di oggi. Volevo aggiungere due cose che mi sembrano importanti, che ho condiviso nell'Aula. Primo, che per il futuro dell'Europa sarebbe molto importante un rapporto più equilibrato fra Commissione, Consiglio e Parlamento Europeo, e secondo, che ci stiamo muovendo verso un policy mix più adeguato in cui c'è una politica monetaria espansiva e c'è uno sforzo strutturale da parte dei paesi. Stiamo andando nella direzione giusta. Così il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Oggi c'è stata anche la relazione annuale dell'Agenzia delle Entrate. Dalla lotta all'evasione, ha detto il direttore generale Rossella Orlandi, sono entrati, o meglio l'Agenzia delle Entrate ha recuperato 14,2 miliardi di euro, un miliardo in più del 2013, il traguardo più importante mai raggiunto. Sentiamolo al microfono di Alessandra Schepisi. È un grande risultato che dimostra un grande impegno degli uomini e delle donne di questa agenzia. Credo non sia l'unico, come avete sentito, perché noi stiamo sforzandoci di ottenere risultati sempre migliori, soprattutto sul tema anche del servizio e della semplificazione. Stiamo lavorando su piani paralleli, che sono quelli del contrasto senza paura, con coraggio, all'evasione fiscale, ma anche su quello della semplificazione e dell'assistenza ai cittadini che hanno diritto e bisogno di un'amministrazione moderna per avere concrete risposte. Come se lo spiega questo recupero record dell'evasione fiscale? Me lo spiego sul fatto che la nostra capacità sempre più alta di selezione e di scelta in qualche modo di come muoverci comporta una maggiore adesione alle nostre richieste. Io spero di avere un'amministrazione sempre più capace di individuare i casi pesanti di evasione, di contrastarli con forza, ma anche di essere dialogante, di spiegare, di condividere, di non cercare le questioni controverse. Non è quello che ci interessa, quello che ci interessa è l'evasione sostanziale. Non vorrei essere fraintesa. L'evasione non è tutta evasione, cioè anche se lei mette per errore uno scontrino sbagliato nella dichiarazione dei redditi, anche quella tecnicamente evasione. Diciamo che non è quella che stiamo cercando. Stiamo cercando di evitare quegli errori attraverso per esempio il precompilato e di contrastare grandi operazioni. Siamo al primo tema di questa giornata, vi ricordo il numero di sms, il 349-238-6666, vogliamo parlare di appalti, perché all'ombra o alla luce, se preferite, della nuova inchiesta che riguarda le grandi opere e che ha portato alle manette per Incalza, alto dirigente del Ministero delle Infrastrutture, che sta creando una serie di problemi politici e che porterà presumibilmente, anche se non vi è alcuna certezza, alle dimissioni del Ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi, c'è evidentemente un sistema da ripensare anche per salvaguardarlo, per così dire, dalla corruzione. Oggi Giorgio Santilli, in un bel commento sul Sole 24 Ore, lo saluto. Giorgio, buongiorno. Ciao, buonasera, ciao, anzi, buonasera a tutti. Presenta una sorta di decalogo di cose che si potrebbero fare, che si potrebbero modificare per far sì, come dire, che non ci sia, possiamo dirla così Giorgio, in maniera che non ci sia nemmeno la tentazione, o che comunque la tentazione sia molto ridotta. Ci vuoi riassumere il più radiofonicamente, il più brevemente possibile, poi rimandiamo gli ascoltatori ovviamente all'acquisto e alla lettura del Sole 24 Ore, quali sono gli interventi principali da fare secondo te? Ma il presupposto del commento che appunto potete leggere sul giornale È che certamente la priorità in questo momento, e d'altra parte le inchieste di Firenze confermano uno stato patologico, diciamo, costante, la priorità è quella di combattere la corruzione. Come abbiamo già scritto nei giorni scorsi, i ladri e i corrotti devono stare in galera, questo non c'è dubbio. Sappiamo che ci sono anche dei disegni di legge specifici sulle pene per i corrotti che stanno in Parlamento e che vanno avanti. Noi però facciamo un ragionamento un po' diverso. Cioè, non è soltanto un problema di corruzione, il sistema degli appalti italiano è malato anche perché non garantisce lo svolgimento, poi l'effettuazione dei lavori e quindi la realizzazione delle opere nei tempi e nei costi certi. Quindi c'è un problema di corruzione e di efficienza. Le due cose, a mio modo di vedere, e da qui molte delle ricette che proponevo stamattina sul giornale, sono abbastanza connesse, sono piuttosto congiunte. Per fare un primo esempio molto chiaro, proponiamo non da oggi una semplificazione della legislazione, cioè della normativa. Ci sono oltre 600 articoli del codice degli appalti fra legge, diciamo, e regolamento. Sono troppi, certamente ci sono una serie di ridondanze che sono tutte italiane e che non trovi in Europa. Allora lì, diciamo, delegifichiamo prendendo come, diciamo, griglia che ci guida alle direttive europee. Questo pensiamo che sia già un primo elemento importante, perché è noto che la corruzione poi si guida esattamente laddove le regole sono eccessivamente complesse, dove c'è un potere della pubblica amministrazione che è ridondante, perché magari ti deve garantire quell'autorizzazione, quel passaggio. È certo, perché nel momento nel quale tu metti un complesso di regole eccessive, consenti anche una discrezionalità a chi è nella pubblica amministrazione e che ha le leve di comando, evidentemente molto forte, anche una capacità di interpretazione delle norme che evidentemente non tutti hanno, no? Quindi la semplificazione da questo punto di vista potrebbe essere, se non risolutiva, comunque un elemento centrale. Al tempo stesso sgombriamo il campo da ogni equivoco, cioè la pubblica amministrazione non va scavalcata, non va girata, deve essere una pubblica amministrazione forte, però con una serie di funzioni e di poteri che siano chiari e circoscritti. Cioè, l'esempio che faccio anche nel decalogo è quello della progettazione. Noi abbiamo bisogno di una progettazione seria, alla base di questo ci deve essere il fatto che l'amministrazione, dal ministero giù per i rami fino al più piccolo dei comuni, sappia che cosa voglia, che opere voglia e soprattutto a che cosa servono queste opere, cioè qual è poi l'utilizzo, il servizio che è connesso a queste opere. Questo è una funzione, un potere dell'amministrazione che nessuno pensa di eliminare, anzi va rafforzato. Chiaramente non ha nulla a che fare con quella ridondanza di norme di cui dicevamo prima, è molto sostanziale, devo sapere che cosa voglio e devo farlo nel miglior modo possibile. Poi nel decalogo, e forse questa è la parte più originale rispetto alle ricette, ce ne sono molte ovviamente di cui si parla, l'altra parte un po' originale è che insieme alla delegificazione io proponevo un ruolo più forte per le autorità e in particolare per l'autorità che oggi è presieduta da Raffaele Cantone, che è nota perché questo è il suo nome, nazionale, autorità nazionale anticorruzione, ma in realtà ha in sé anche i poteri della vecchia autorità di vigilanza dei lavori pubblici, cioè io penso a un regolatore che attraverso atti interpretativi, attraverso un sostegno sostanziale alle amministrazioni quando appaltano, dia una mano e le aiuti a interpretare al meglio quelle regole poche o meno che sono rimaste. Mi sembra che le due cose vadano di pari passo, cioè una legislazione meno ridondante e qualcuno che, conoscendo la materia, la casistica, i casi europei, diciamo le best practice, come si dice, aiuti poi le amministrazioni a realizzarle al meglio. Un'ultima cosa ti vorrei chiedere, Giorgio, poi so che sei impegnato e quindi ti lasciamo andare, brevemente sull'altro pezzo che firmi oggi, che è, se vogliamo, più strettamente correlato per certi aspetti all'inchiesta, ma è anche correlato a quello che racconti, ossia questo tema della Orte Mestre. Cos'è la Orte Mestre? È un'autostrada per la quale sono previsti 9,8 miliardi di lavori, sulla quale si appunta un pezzetto dell'inchiesta, e per la quale il governo Letta aveva inizialmente previsto una defiscalizzazione da 1,9 miliardi, che è stata fatta saltare dalla Corte dei Conti, la faccio molto semplice io, e che è stata reintrodotta dallo Sblocca Italia in sostanza. Sì, allora lì noi abbiamo più volte fatto polemica nei confronti di quest'opera ed è una polemica che era, diciamo, a monte. Vediamo anche nel caso della Brebemi come sia molto difficile pianificare il traffico e quindi i ricavi che derivano dal traffico nel momento in cui si realizza con capitali privati e con qualche sostegno pubblico un'autostrada. Allora, la prima cosa da chiedersi quando si propone un'opera del genere è se sia davvero utile. Al nostro modo di vedere 10 miliardi considerati come è stato con lo Sblocca Italia un'opera prioritaria in questo momento non lo è, cioè non è, quei 10 miliardi di costo non sono prioritari. Si può dire la pagano i privati e quindi sì, è vero, in effetti il rischio dovrebbe essere accollato sui privati, spesso sappiamo che non è così perché poi si interviene sui piani a posteriori, si trovano forme di compensazione eccetera. In questo caso a monte era stata decisa questa defiscalizzazione. Notare, noi sulla defiscalizzazione data al privato che investe per aiutarlo a trovare, diciamo, un quadro economico che tenga, siamo assolutamente favorevoli, perché siamo favorevoli all'impegno di capitali privati di autostrade. Resta il fatto che in questo caso lo Sblocca Italia ha risolto un paio di problemini che c'erano nel momento in cui la defiscalizzazione era stata varata, cioè c'erano delle linee guida che si applicavano a tutti e in queste linee guida non rientrava la Orte Mestre, in particolare è un'opera che il governo vuole si faccia a stralci, quindi per pezzi, e non rientrava perché nel decreto legge che aveva varato la defiscalizzazione si diceva che questo era soltanto per opere successive al 2013, mentre la Orte Mestre è stata proposta già nel 2004. Con lo Sblocca Italia questi due aspetti che la Corte dei Conti aveva bloccato in sede di registrazione della prima delibera CIPE sono stati risolti e quindi oggi è stata varata una seconda delibera CIPE che è all'esame della Corte dei Conti. Si presuppone che con questo avallo, diciamo così, legislativo, sì, la Corte dei Conti questa volta debba registrare. Resta naturalmente la critica che il quotidiano, che il Sole 24 Ore rivolge all'opera. Io ti ringrazio, grazie a Giorgio Santilli del Sole 24 Ore. Nel decalogo, tra le altre cose, vi voglio segnalare, cioè, è questo punto che mi interessa molto e toccherà anche il tema che andremo a trattare dopo. L'adozione del BIM, il Building Information Modeling, ossia la modellazione 3D delle opere, la faccio molto semplice, consente di abbattere del 30% i costi, quantomeno, della progettazione. Noi ci fermiamo per un secondo, ci ritroviamo tra un attimo e torniamo a parlare di industria, di manifattura e anche di questi temi qua. Eccoci di nuovo, 349-238-6666 per i vostri sms. Provate per un attimo a pensare com'è cambiata la vostra vita, com'è cambiata la vita di tutti noi in questi ultimi anni. Provate a pensare al fatto, per esempio, che adesso, se abitate in una grande città, siete in grado di affittare una macchina in un minuto tramite un'app del vostro telefono. Pensate al fatto che se un prodotto non vi piace potete potenzialmente farlo sapere a tutto il pianeta tramite i social network. Provate a pensare al fatto che potete affittare un appartamento di un'altra persona se decidete di andare in un'altra città, sempre tramite un'app col telefono. Ora, se tutto questo ci ha cambiato la vita in maniera così radicale, pensate come lo cambia alle aziende che lavorano quotidianamente e lavorano in particolare nella manifattura. Questo e ad altri temi è dedicato un ebook che uscirà domani sul Sole 24 Ore, che si intitola Fabbrica 4.0. Saluto Gianni Potti, che è presidente del Comitato Territoriale di Confindustria Servizi Innovativi. Potti, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Questo perché questo ebook nasce da un progetto di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici che sta facendo un roadshow in tutta Italia per raccontare tutto questo agli imprenditori, perché se noi ce ne accorgiamo nella nostra vita quotidiana, non è detto che gli imprenditori e le imprese si accorgano che tutto questo gli serve all'interno della loro produzione. È di questo che vogliamo parlare, ma lo facciamo dopo il traffico. Potremmo portarne mille altri di esempi. Pensate solo a quanto è cambiato il nostro modo di ascoltare la musica solo nell'ultima decina di anni, da quando è uscito l'iPod e l'Apple si è inventata iTunes. E pensate che cosa è successo per esempio alle aziende che producevano CD. Dunque, con Gianni Potti parliamo di questo e non solo di questo, evidentemente. Io le chiedo, posto che c'è questo roadshow che è partito il 26 novembre scorso, ha toccato Ancona, Napoli, Brescia, si concluderà nella prima metà di giugno a Roma, e c'è questo ebook disponibile domani gratuitamente sul sito del Sole 24 Ore, le chiederei, Potti, innanzitutto di portarci due o tre esempi che facciano capire ai nostri ascoltatori, tra i quali ci sono anche degli imprenditori, della manifattura, che cosa può cambiare per loro e come possono cambiare all'interno delle aziende. Certo, ma io direi un primo esempio, il più semplice, che è il famoso assemblaggio in linea, che è un po' figlio della seconda rivoluzione industriale. Oggi quello stesso assemblaggio in linea dei prodotti ha una logica completamente diversa, che è fatta di cyber security, di cloud computing, di sensoristica, di stampanti 3D, di big data. Mi spiego meglio. Nel momento in cui andiamo a definire un prodotto, nel momento in cui c'è la nostra assemblaggio in linea dei prodotti, sono questi i nuovi componenti che danno il valore aggiunto a quel prodotto per bucare il mercato. E l'esempio mi viene facile, e qui c'è la seconda citazione, sull'e-commerce. Io ripeto sempre che quando noi facciamo e-commerce non basta solamente tradurre magari con Google le varie lingue, non basta solamente mettere i soliti prodotti, ma va ripensato il processo aziendale. Non a caso nel libro noi parliamo di reingegnerizzazione dei processi produttivi. Quindi questa della digitalizzazione, al di là del digitale strettamente inteso, è una grande occasione per tutti noi imprenditori, piccoli e medi soprattutto, perché le grandi aziende, se Dio vuole, lo stanno già facendo, per ripensare i processi produttivi in una chiave completamente diversa. Per fare cosa? Per arrivare ai mercati nelle forme più moderne, che si chiami e-commerce, o chi non fa B2C, comunque con le forme solite tradizionali, offrendo prodotti diversi e assolutamente caratterizzati e profilati. Sì, e anche Potti, molto semplicemente per essere più produttivi. Per produrre, sì, per essere più produttivi, ma anche per rivedere le logiche del magazzino, tanto per fare un esempio, perché quando parliamo di manifattura additiva, piuttosto che parliamo di stampanti 3D, noi rivediamo la logica della logistica, perché evidentemente servono scorte molto più limitate e viene fatto più, come dico sempre, profilato il prodotto e legato all'esigenza del nostro cliente, ma questo vale per un'automobile come per qualsiasi altro oggetto della nostra casa o del nostro design. Cambia completamente l'approccio, cambia la logistica, cambiano i tempi di produzione, e quello che voglio dire è che il mercato sta richiedendo sempre di più, proprio a causa della trasformazione digitale, che le aziende siano più rapide a rispondere tanto ai consumatori quanto alle persone, alle altre aziende, insomma, per chi fa B2B. Certo, e tutto questo consente in sostanza una flessibilità maggiore e la capacità di rispondere molto più rapidamente, che è il grande tema di questi anni, no? Una produzione e ordini che non sono più regolari come un tempo, ma estremamente irregolari, e dipende solo parzialmente dalla crisi. Assolutamente d'accordo, ma faccio un esempio anche qui concreto per chi ci ascolta. Io frequento ultimamente un Fab Lab dedicato a food and design. Lì la cosa potrà sembrare particolare, ma fanno la pasta, costruita su misura, quindi la pasta fatta a modo di automobilina piuttosto che fatta a forma di anello o via di seguito, oppure le torte nuziali, come cambiano i nostri pasticceri, possono mettere la figurina ridisegnata del volto degli sposi, faccio due esempi banalissimi, e questo ti cambia il mercato, perché chi ti dà questo valore aggiunto non è più solamente un pasticcere che fa un'ottima torta, ma che dà quel tocco di qualità in più, di diversità in più, ed è su questo terreno che noi, quando parliamo del famoso Italian lifestyle, eccetera, possiamo caratterizzarci. Credo che sia proprio su questo terreno riuscire a dare dei prodotti sempre più di qualità, sostanzialmente. Quindi fabbrica 4.0 è proprio in questa direzione. Innovatori che costringono sostanzialmente tutti gli altri ad adeguarsi, pena la fine del business, perché di business che sono letteralmente morti nel corso dell'ultima quindicina d'anni ne abbiamo visti. Citavo prima i compact disc, adesso non so quale sia esattamente la condizione, però ormai gran parte della musica viene venduta in digitale, quindi chi produceva l'oggetto fisico compact disc probabilmente adesso non è che versi in ottime condizioni. Bellissimo esempio, perché quando noi siamo passati dalle famose videocassette, che sembra che siano passati 100 anni, ma credo che fossero sia una decina d'anni fa, ai compact, sembrava che quella fosse la nuova frontiera. Oggi ormai i compact non li usiamo neanche più, in qualche automobile neanche li mettono più la fessura per poterli caricare, insomma, quindi evidentemente ormai siamo al digitale puro. Ma chi avrebbe pensato questa accelerazione? Diciamo che i tempi del cambiamento oggi sono diventati, non sappiamo nemmeno quanto veloci, perché io sostengo sempre, anche rispetto all'alfabetizzazione, rispetto a noi imprenditori, dei temi digitali. Una mattina ci alzeremo e quel determinato processo cambierà le nostre vite. Prima sentivo nell'introduzione, credo che facesse riferimento a Airbnb, quando si parlava del modo di prenotare, piuttosto sì, che TripAdvisor, per farci un'idea di com'è il ristorante piuttosto che l'albergo. Allora partecipo ogni tanto a riunioni dei colleghi che dicono: no, questi non ci devono giudicare noi degli alberghi, ma tu ormai gareggi in queste regole. E comunque io quasi sempre un'occhiata a TripAdvisor la do, poi che la considero la Bibbia del turismo o meno, non è detto, ma comunque un'occhiata gliela diamo in molti, ritengo. E questo cambia il business degli alberghi, dei ristoranti. Ha cambiato il modo di giudicare come scegliere l'albergo, sì, come scegliere il ristorante. Airbnb ha comunque saltato un passaggio della filiera della distribuzione del turismo, ha abbassato in parte anche i costi, bisogna dire le cose come sono, come ha fatto anche Uber, che ha iniziato in Italia a installarsi al Talent Garden di Milano. Noi siamo dentro al Talent Garden del Veneto, quindi conosco benissimo la vicenda, però in Italia, come ricordiamo, adesso al di là di dare i giudizi su Uber o non Uber, gli sono andati in realtà, gli italiani, a bucare le gomme, a l'auto. Non solo in Italia, a dire la verità. Non solo in Italia, allora, però comunque è un modello assolutamente innovativo e competitivo con il quale bisogna fare i conti. Allora, grazie a Gianni Potti, presidente del Comitato Territoriale di Confindustria Servizi Innovativi. Domani gratis sul sito sole24ore.com l'ebook dedicato al progetto Fabbrica 4.0. C'è qualche sms a proposito di questo tema, e non solo, in particolare all'ascoltatore che dice: ma noi che ci frega, facci sapere di lupi, o hai paura dei poteri forti? Però adesso c'è il GR, ne parliamo dopo. Ed eccoci di nuovo, buonasera cari ascoltatrici e cari ascoltatori da Simone Spezia, benvenuti alla seconda parte di Focus Economia. Avevo lasciato in sospeso un paio di sms di ascoltatori sul tema della rivoluzione tecnologica, chiamiamola così. Qualcuno ci dice che la prossima vera rivoluzione sarà nelle lavatrici, prendete nota, non so, insomma, mi fido, facciamo così. Comunque, ne vediamo molte, molte avvicinarsi. Qualcuno scrive: solo le mazzate in testa non sono digitali. Siamo a livello di Max Catalano, per chi se lo ricorda. Infine l'ascoltatore: chi se ne frega di queste cose, facci sapere di lupi. Hai paura dei poteri forti? Nessuno qua ha paura dei poteri forti, di lupi abbiamo parlato ampiamente anche nei giornali radio, riascoltatevi Effetto Giorno di Oggi, abbiamo parlato del volo pagato alla moglie, di decine di altre cose, le raccomandazioni al figlio, di che cosa ci vogliamo raccontare ancora? Abbiamo parlato in apertura, che secondo me era il taglio giusto per questa sede, per una trasmissione che si occupa di economia, della gestione degli appalti, di come renderla un po' più trasparente. Siamo ai mercati finalmente. Positiva a Milano, più 1,06% il FTSE MIB, più 1,02% il FTSE O'Share, con il resto d'Europa che non va particolarmente bene. Parigi sostanzialmente piatta, un più 0,07%, Francoforte che cede lo 0,20%, Londra su dello 0,25%. Partiamo proprio da qua, da questa performance di Milano rispetto alle altre borse europee. Guido Maurino, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera, vai. Buonasera, allora sì, oggi Milano è andata meglio rispetto alle altre piazze europee, soprattutto per merito di alcune storie specifiche che hanno riguardato delle società oggi, in particolare Saipem, Enel e Pirelli, che hanno trainato un po' a rialzo tutto il listino di Milano. Nel resto d'Europa invece c'è più cautela, perché si continua a guardare con una certa preoccupazione alla situazione della Grecia. Questa sera è previsto un vertice europeo sul tema, anche se tutti i leader hanno detto che nessuno si deve aspettare delle decisioni dall'incontro di questa sera, hanno rimandato tutto all'Eurogruppo e alle richieste che sono venute proprio dall'Eurogruppo per delle riforme per quello che riguarda, sì, il governo della Grecia. Siamo di fronte quindi all'ennesimo Consiglio europeo che non sarà decisivo sulle sorti della Grecia. Noi andiamo sui singoli titoli a questo punto. Ti direi partire dal migliore di oggi, più 3,90% Saipem. Sì, allora, per quello che riguarda Saipem, c'è oggi la notizia anticipata dal Sole 24 Ore di una joint venture che Saipem ha stipulato in Cina con Petrocina. Si tratta di una notizia positiva, secondo quello che riferiscono gli analisti per il titolo, in quanto apre a Saipem un mercato sostanzialmente nuovo e quindi delle prospettive di crescita. Sì, tra l'altro la società prevede ricavi per 700 milioni nei primi 4 anni, profitti per 42 milioni, quindi al momento valutata bene la notizia. Enel più 3,34%, oggi ha presentato il piano industriale, tra un attimo sentiremo l'intervista che Livia Zancaner ha realizzato con l'amministratore delegato, e quindi ci torneremo tra un attimo su Enel. Pirelli invece, Guido. Sì, per quello che riguarda Pirelli, oggi indiscrezioni del Corriere della Sera riferiscono che il numero uno del gruppo, Marco Tronchetti Provera, starebbe finalizzando un progetto per il riassetto nell'azionariato di Pirelli. Sostanzialmente si tratterebbe di trovare un partner asiatico che si unisca agli attuali soci per procedere a un'OPA sulla società con eventuale delisting. Una notizia anche qui che ha incontrato il favore del mercato. Gli operatori si aspettano che il prezzo di un'eventuale OPA possa essere a premio di circa il 10% rispetto alle attuali quotazioni, e il titolo oggi comunque ne ha beneficiato con questo più 3,26%. Bene le banche, come si diceva: Unicredit più 2,06, Monte dei Paschi più 1,9, Banco Popolare più 1,7, così come la Popolare di Milano, l'1,5 guadagna la Popolare Emilia Romagna, Mediobanca l'1,5, bene anche Risparmio Gestito, Azimut più 1,49, Positiva 2A più 1,3, CNH più 1,29, così come Fiat Chrysler che guadagna l'1,8%, Finmeccanica l'1,15, Eni l'1,09%, in fondo all'Isino è nel Green Power che cede il 2,13, Ferragamo l'1,5, Setti Microelectronics l'1,10, Snam lo 0,67, Luxottica lo 0,6. Oggi Telecom Italia, Guido, ha presentato i conti, sostanzialmente piatta, un meno 0,18%. Sì, i conti sono stati in qualche modo positivi per il gruppo, perché si tratta di un ritorno all'utile dopo 3 anni di perdite. L'utile è stato di 1,3 miliardi di euro per il 2014, è stato leggermente inferiore a quello che si aspettavano gli analisti, che puntavano su un utile di 1,4 miliardi, e questo ha leggermente penalizzato il titolo nella giornata odierna. E dunque questo quello che riguarda Telecom Italia. Gli altri titoli: IUX giù dello 0,14, Mediolanum appena sopra la parità, così come Moncler, Buzzi, Unicem, Mediaset, tutte appena sopra la parità. Intesa San Paolo che guadagna lo 0,33%. Vediamo se abbiamo scordato qualcosa. Luxottica che cede lo 0,6 e GTEC lo 0,42. Sì, per quello che riguarda GTEC, ieri c'è stata una presentazione con gli analisti, il gruppo si prepara a lasciare Piazza Affari il prossimo 2 aprile, in quanto ha fatto un'operazione con una società americana che creerà un gruppo denominato IGT, che sarà però quotato a Wall Street, per cui dopo aver sfondato quota 20 euro nei giorni scorsi sta un po' lentamente ritracciando, ho già chiuso 19,03 in vista proprio dell'abbandono di Piazza Affari. Grazie a Guido Maurino di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. La quotazione dell'euro, ce lo chiedete giustamente sempre, soprattutto in questo periodo, a 1,0645 nel cambio con il dollaro. Il traffico e poi parliamo di Enel. Qualche tifoso o possessore di titoli mi chiede all'indomani della performance di ieri della Juventus come è andato il titolo nella giornata di oggi. Vabbè, facciamo un'eccezione, dopo la serata dei Champions, un più 0,37%, mica granché. Qualcun altro ancora sul tema dell'economia digitale dice: quello delle lavatrici non sta scherzando. Non so che ci deve essere un gruppo di ascoltatori di Radio 24 e di Focus Economia appassionato dell'innovazione nel mondo delle lavatrici. Comunque sono d'accordo, l'economia digitale sta cambiando tutto, cambierà profondamente anche le lavatrici, ma la realtà è che, come si diceva prima con Potti, non sappiamo quale sarà il prossimo passo. Livia Zancaner, la nostra Livia Zancaner in diretta da Londra, buonasera. Buonasera. Che è andata a seguire la presentazione del piano industriale di Enel. Allora, Livia, cosa ci dici? Sì, allora, stamattina l'amministratore delegato di Enel, Francesco Staracci, ha presentato il suo primo piano industriale. La durata è di 5 anni, quindi si tratta di un piano fino al 2019. I punti principali sono la crescita industriale, la creazione di valore anche per gli azionisti e le dismissioni. Alla crescita quindi verranno dedicati 18 miliardi di euro di investimenti in 5 anni, da destinare soprattutto alle reti e all'energia rinnovabile, focus importante su mercati emergenti. È prevista poi anche la vendita di asset per 5 miliardi di euro, 2 miliardi di cessioni sono già in corso, le altre verranno effettuate. Punto importante sicuramente per il mercato e per gli azionisti è il dividendo. Salirà da 13 centesimi ad almeno 16 quest'anno a 18 nel 2016. Per quanto riguarda i conti, quindi numeri alla mano, per il 2019 il gruppo si aspetta un utile ordinario in rialzo del 10% a 3,4 miliardi. Il debito, che ricordiamo per Enel è stato un tasto dolente, è a 37,4 miliardi nel 2014, quest'anno crescerà ma poi inizierà a scendere. L'utile netto salirà di 200 milioni al 2019. Nel 2014, ricordiamo, è sceso di oltre l'80%, a pesare però sono state le svalutazioni di alcuni asset, soprattutto in Italia e Slovacchia, per 6,4 miliardi di euro. Sentiamo quindi quali sono tutte le novità contenute nel piano industriale, diciamo appunto il primo dell'era Starace, proprio in un'intervista all'amministratore delegato dell'Enel. Rispetto agli ultimi anni, la novità è la seguente: abbiamo ricominciato un percorso di crescita e poi questo percorso di crescita ha due differenze sostanziali rispetto a quello che sia noi che altre società come noi hanno fatto nel passato. Non pensiamo che sia bene crescere ancora per colpi di grandi acquisizioni, e né attraverso investimenti massicci in pochi grandi colossali impianti. Riteniamo che sia molto meglio crescere invece in maniera organica, attraverso un maggiore numero di investimenti piccoli medi sparpagliati molto sia per tecnologia che per geografia. Questo ci permette due cose: prima di tutto di controllare bene il modo in cui cresciamo e di poter aumentare o ridurre questo tasso di crescita a seconda delle cose che succedono intorno a noi, quindi cambi di nuovo di scenario, cose del genere, o cambiamenti tecnologici che intorno a noi sono continui. Quindi è una crescita più organica, più tranquilla, se posso dire, più graduale e nello stesso tempo più gestibile. E sono attesi quindi 18 miliardi di investimenti in 5 anni, su cosa punterete? Punteremo su tutto quello che non ci esponga al rischio delle commodities e in particolare con grande attenzione alle reti di distribuzione, sia nuove reti sia miglioramento, digitalizzazione degli esistenti. Punteremo molto sulle rinnovabili e sulla generazione tradizionale, a patto che non sia colossale e che non sia esposta alle commodity, quindi ci sia un prezzo fisso nel tempo o comunque variabile nel tempo con una formula possibile. Il grosso quindi sono queste due aree. Poi punteremo molto su una crescita nella penetrazione commerciale sulla base clienti, che deve crescere in maniera importante. E per l'Italia che strategia avete? Chiuderete delle centrali che sono inutilizzate e su altri fronti? In Italia abbiamo annunciato questo piano di conversione di 23 siti produttivi che non hanno più un futuro possibile, e quindi è un piano che non tocca l'occupazione ma che ci permette di valorizzare per il bene dell'Italia un patrimonio di siti che potrebbero dare un contributo anche al risveglio economico del paese. E poi invece abbiamo un grande piano di investimento nella rete, perché è vero che abbiamo la rete dal punto di vista della digitalizzazione più efficiente del mondo in questo momento, ma dobbiamo prepararla per la seconda generazione di contatori digitali e di computer che ormai possono governare questa rete, quindi un investimento che attraverso il 2016 fino al 2019 ci vedrà investire molto sulla qualità e la digitalizzazione, la pervasiva digitalizzazione di tutte le infrastrutture di rete in Italia. Amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, intervistato da Livia Zancaner. Prima di chiudere, dedichiamo uno spazio alla Federal Reserve, che ieri ha aperto al primo rialzo dei tassi in 10 anni. Decisione che dipenderà dai dati sull'inflazione e la disoccupazione. I tassi americani sono prossimi allo 0,0025%, una condizione che dura dal 2008. Saluto innanzitutto Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Mario, buonasera. Eccoci, buonasera a voi. Prima di parlare con te, facciamo sentire ai nostri ascoltatori una voce di Janet Yellen, il presidente della Federal Reserve, sentiamola. We also updated our forward guidance indicating that an increase in the target range. Abbiamo aggiornato le indicazioni sulle linee guida della nostra politica monetaria, indicando che un aumento dei tassi rimane improbabile nel prossimo incontro di aprile. Se le condizioni economiche dovessero continuare a migliorare, non escludiamo la possibilità di un intervento nelle riunioni successive. Voglio sottolineare che qualsiasi decisione sulla tempistica dell'intervento dipenderà dalle informazioni aggiuntive sullo stato dell'economia di cui disporremo. Le modifiche che abbiamo apportato non significano dunque assolutamente che abbiamo preso una decisione sui tempi dell'aumento dei tassi. In altre parole, solo perché abbiamo rimosso la parola paziente dalla dichiarazione, non significa che siamo diventati impazienti. Doesn't mean we're going to be impatient. Beh, interessante Mario Platero che tutto sia giocato su queste due parole, pazienza e impazienza, no? Sì, vedi, allora io ti dirò, c'è un dialogo con il mercato che la Federal Reserve ha avviato, credo, un paio d'anni fa, vorrei farlo risalire addirittura un paio d'anni fa. Ed è un dialogo che è stato sempre molto coerente. La Federal Reserve ha annunciato che a un certo punto avrebbe cambiato e poi ci ha messo 2 anni. Nel frattempo ha chiuso la politica di QE3, quella di accomodamento ulteriore, e anche quella l'aveva annunciata. È chiaro che sembra un gioco semantico, ho perso la pazienza ma resto paziente, no? Diciamo così. E questo può creare dei, come dire, qualche reazione perplessa, ma non nel mercato. Io ho letto sui nostri giornali, insomma, che la Federal Reserve è opaca, che la Federal Reserve dà messaggi incerti, nulla di tutto questo. La Federal Reserve ha annunciato tempo fa che avrebbe cominciato a considerare un cambiamento di politica dei tassi, non sa quando comincia. È logico che non sappia quando cominciare, perché tutto dipende dal contesto congiunturale, dipende dall'andamento dell'economia, dell'inflazione soprattutto. Dipende dall'andamento dei rapporti valutari, si è aggiunto un dollaro molto più forte rispetto a 4-5 mesi fa nei confronti dell'euro, ma anche di altre valute, dunque questo cambia il quadro macroeconomico. Perdonami Mario, quanto incide secondo te nella pazienza o impazienza che avrà la Federal Reserve la mossa di Mario Draghi, il quantitative easing che ha oggettivamente indebolito l'euro nei confronti del dollaro? Ha un peso nelle valutazioni della Yellen? Lo ha sicuramente, lo ha in termini indiretti, lo ha in termini dell'impatto che questo può aver avuto sui rapporti valutari, perché è ovvio che con un rafforzamento del dollaro diminuiscono ulteriormente le pressioni inflazionistiche all'importazione, perché tu con lo stesso dollaro compri più beni e servizi. E dunque è questo che ci ha detto ieri la Yellen, insomma questo è un elemento nuovo, dobbiamo capire un attimo come muoverci. Ma attenzione, perché la Yellen non ha annunciato ieri l'aumento dei tassi di interesse, ieri ha fatto questa piccola modifica semantica e subito dopo averla fatta ha chiarito che però non cambierà nulla, nel senso che a quel punto la Fed si riserva il diritto di intervenire e di aumentare i tassi molto probabilmente nel corso di uno dei comitati monetari che avvengono ogni 6 settimane, oppure anche al di fuori, come aveva detto durante l'audizione al Tesoro una decina di giorni fa, e quando sarà il momento lo farà. A quel punto i mercati sono già pronti, perché questo fatto che l'America aumenterà i tassi è già scontato dai mercati, nei cambi, nella borsa e così. Quindi coloro che dicono incertezza, la Fed è razionale, dice da messaggi contraddittori, opaca, eccetera eccetera, secondo me, insomma, o non seguono il mercato nel giorno per giorno, o se no forse sono stati contrari alla politica della Fed fino che in realtà, chissà, forse noi avremmo dovuto seguirla anni prima. Allora, grazie a Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Ci si ritrova domani nel corso di Effetto Giorno, la strana coppia come sempre, a partire dalle 13, Mario Platero con America 24, alle 13:45. Ringraziamenti Gianmarco Ferronato in regia, c'è Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione. Un grazie a tutti voi per l'ascolto, come sempre. Appunto, ci si sente domani alle 13, un Effetto Giorno. Radio 24, la passione si sente.